Incontri di Gianfranco Fabi. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Buonasera a quanti ci ascoltano con Everybody Hard dei REM. Iniziamo l'incontro di questa sera e buonasera a Vittorio Emanuele Parsi. Buonasera a voi. Perché Everybody Hard dei REM? Perché capita a tutti di soffrire, di far soffrire nella vita, e perché la sofferenza collegata a una canzone così dolce e bella forse può essere alleviata. È una canzone bella. Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica, direttore della Seri, Alta Scuola per l'Economia e le Relazioni Internazionali, sempre della Cattolica, editorialista del Sole 24 Ore, grande esperto di relazioni internazionali, anche perché poi le relazioni internazionali le ha vissute. In quante università ha insegnato Parsi? Ma penso alla fine un 7-8. Un giro per il mondo? Sì, in posti anche un po' esotici, per così dire, dal Kazakistan alla Cambogia negli anni dell'immediato post-Pol Pot, al Libano degli anni della guerra civile. Poi sì, anche in posti più normali come gli Stati Uniti e la Svizzera. Sì, anche in posti più normali, ma a volte un pochino meno avventurosi. Meno avventurosi. Quindi, com'è nata questa passione per le relazioni internazionali? Ma la verità nacque da studente, anzi da giovane professore, da giovane assistente, perché trovavo la politica italiana così noiosa, erano gli anni 80, e così tetri i personaggi che mi sembrava impossibile dover studiare questa cosa professionalmente da politologo, e quindi mi sono dedicato agli esteri e da allora non mi sono mai pentito. C'era maggiore possibilità di scelta, la politica italiana è rimasta noiosa, quella estera è sempre stata invece un po' vivace, un po' anche vivace in senso negativo certe volte. Sì, certe volte sì, però è anche vero che ha sempre consentito di, come posso dirle, di trovare cose interessanti da provare a spiegare. Poi in Italia c'è poca attenzione in realtà alla politica, certo, internazionale. Questo è uno svantaggio per alcuni motivi, però per altri è anche un grande incentivo a parlarne, perché quando poi se ne parla a volte si riesce a coinvolgere il pubblico. Gli anni 80 sono stati certamente degli anni particolarmente importanti, chiusi poi con l'89, con il grande cambiamento geopolitico, come si dice. Forse già pensava a questi cambiamenti quando ha iniziato ad occuparsi di politica internazionale, appunto. Ma come tutti pensavo che di vivere in uno scenario sostanzialmente immobile. Poi chi ha vissuto gli anni della guerra fredda si ricorderà che il muro di Berlino sembrava essere destinato a restare lì per l'eternità. Quindi io stesso, quando iniziò a studiare, mi occupavo principalmente di rapporti transatlantici. E poi, diciamo così, seguendo un pochino la strada dei guai, mi sono progressivamente spostato verso il Medio Oriente, sempre seguendo un po' la tematica della sicurezza, e poi questo Medio Oriente allargato negli ultimi anni ho prevalentemente lavorato su questi temi e viaggiato prevalentemente in questi posti. Beh, Medio Oriente di cose da dire, da capire ed anche da prevedere ne ha moltissimo. E giudica l'ultimo, quello che è avvenuto proprio dei giorni scorsi, domenica scorsa, questo grande incontro in Vaticano? Beh, un gesto simbolico importante. Poi dopo bisogna tenere presente che restano sul campo, per così dire, i problemi di sempre. Credo che ce ne siano almeno quattro grossi di problemi. C'è un problema in campo israeliano, che è quello che fa il governo Netanyahu, che costruisce insediamenti illegali a ogni sprombattuto. C'è la questione dei palestinesi interna, molto importante per loro, questo della riappacificazione tra Hamas, sì, e autorità palestinese, che però chiaramente dagli israeliani è vista con il fumo agli occhi. C'è la questione della guerra civile siriana col suo spillover in Libano e in Giordania, perlomeno, oltre alle conseguenze sul paese proprio della Siria. E c'è, come ultimo fatto difficile, diciamo così, l'American fatigue, per così dire, cioè la noia, un po' la stanchezza americana per questo Medio Oriente, che hanno preso di petto già negli anni 90-91 con la guerra in Iraq, certo, senza riuscire di fatto a cavare un grande ragno dal buco. Quindi tutte queste cose sono sugli asset, diciamo così, del realismo. Dall'altra parte c'è questo grande questa spinta, diciamo così, ideale, che può essere un tentativo nobile, speriamo anche utile. Ecco, purtroppo si parla poco sui giornali italiani, anche sui media, nella televisione, di questa politica nazionale. Non si parla quasi più dell'Iraq, per esempio. L'Iraq comunque resta un grande problema. Beh, l'Iraq è tornato ad avere i livelli di perdite umane degli anni peggiori della guerra civile durante l'occupazione americana. Penso che il numero di morti che abbiamo avuto quest'anno e nell'anno precedente sia equivalente a quello del 2006-2007, che è stato veramente il punto di massimo disastro. Perché la guerra settaria è ripresa, però anche qua bisogna dirsi le cose con molta chiarezza. Le guerre settarie esistono perché ci sono azionisti, per così dire, che investono sulle divisioni settarie. E nel Medio Oriente purtroppo c'è uno in particolare che nel bene e nel male, si può dire nel bene, diciamo che per motivi di politica interna e internazionale ha agito molto sul divide tra sciiti e sunniti, e questo l'ha fatto molto rinfocolare. E quindi la situazione è ancora una situazione di cui la stabilità appare un sogno? Beh, basti pensare che una delle principali formazioni terroristiche jihadiste che agisce in Siria in realtà agisce nel Bia del Shan, quindi agisce avendo in mente e avendo come teatro operativo la provincia occidentale dell'Iraq e la provincia orientale della Siria, quindi dal triangolo, diciamo così, sunnito di Fallujah fino ad entrare nelle parti sunnite della Siria. Per cui ha voglia, se questo c'è. E poi bisogna calcolare che chi agisce per proxy in questi due conflitti agisce tanto in Siria quanto in Iraq. E alla base c'è comunque questo fondamentalismo religioso. Beh, c'è l'utilizzo politico della religione, che è alimentato sicuramente da una cultura sociale molto conservatrice e in cui difficilmente si riesce a poter dividere, separare la politica dalla religione. Su questo scenario c'è qualcuno che ha deciso di investire e di giocare le sue carte, e questo è un po' quello che rende così intrattabile la situazione. Ecco, ma cosa può fare una realtà come quella europea di fronte alla situazione nel Medio Oriente? Poi arriveremo appunto a parlare dell'Europa, ma guardiamo adesso nella prospettiva appunto della politica internazionale, ammesso che ci sia ed è molto poca la politica internazionale europea, ma cosa può fare una realtà come quella europea? Beh, intanto credo che l'Europa abbia davanti a sé il più grande compito, la più grande missione della sua vita, che è sopravvivere. Perché non è così scontato che l'Europa, così come la conosciamo, come un potenziale attore internazionale, sia ancora destinato a essere tale. Il rischio vero è che ci sia una forma di regressione in quello che l'Europa è a seguito di queste gigantesche difficoltà di questi anni. Detto questo, io credo che l'Europa deve prendere consapevolezza che non può essere una costruzione, una casa magari anche molto, molto interessante, ma senza finestre con vista mare. E noi abbiamo una costruzione europea che non ha vista sul Mediterraneo, sostanzialmente, certo, programmaticamente. Questo va, e lo vediamo, lo scontiamo noi in particolare con la questione del non controllo dell'immigrazione, con questi numeri di questi giorni, che 3.000-2.000 al giorno, lei capisce bene che significa avere 100-150.000 profughi di colpo, certo, che arrivano via mare, che sono sicuramente meno di tutti quelli che arrivano con i visti sugli aeroporti. È giusto quello che si dice, ma quello che però spesso non si dice è che quelli che arrivano via aeroporto col visto poi si dileguano, per così dire, non diventano un problema di ordine pubblico e di tensione sociale in Italia, mentre quelli che noi andiamo a recuperare in mare diventano un problema solo nostro, che facciamo sempre fatica a gestire. Quindi in qualche modo una politica mediterranea e medio orientale sarebbe importantissima, e credo che sia anche importante per dare la sensazione al mondo arabo che ci guarda che esistono dei mediatori alternativi o complementari a quello americano. Ecco, sì, i problemi sono molto, molto vasti, indubbiamente comprendono una geopolitica che ha tanti risvolti, ma in cui risalta anche un po' l'impotenza dell'Europa. Incontri. Some. ancora con i REM. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Vittorio Emanuele Parsi, con cui abbiamo parlato nella prima parte di questo programma della realtà internazionale. Vittorio Emanuele Parsi è docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, sempre della Cattolica. E inevitabilmente abbiamo parlato dei punti più caldi dell'attualità politica, dell'attualità appunto internazionale, ed è il Medio Oriente. Il Medio Oriente con l'Iraq, la Siria, la realtà appunto del conflitto tra Israele e i palestinesi che sempre rimane aperto. E parlavamo appunto dell'Europa, parlando dell'Europa, e Vittorio Emanuele Parsi diceva la sfida più importante dell'Europa è quella di sopravvivere. Perché? Perché in realtà, quando si guarda la disaffezione nei confronti della costruzione europea e anche agli esiti del voto in Europa, che ha portato a successo anche partiti molto critici appunto rispetto all'Unione Europea, vediamo due cose. Da un lato c'è stata una reazione generalizzata nei confronti, diciamo così, delle élite, non importa se nazionali o europee, ma proprio una reazione di distacco. Il voto francese su questo è stato particolarmente significativo, perché è un voto che ha proprio messo in mora, per così dire, il processo top down, certo, di costruzione del consenso della Quinta Repubblica. E poi dall'altro c'è un fenomeno importante che va riconosciuto: qualcosa è dato storto nel modo in cui c'è stata venduta l'Europa. Lei ricorderà che negli anni proprio del lancio dell'euro l'Europa è stata rilanciata, per così dire, presso le opinioni pubbliche, dicendo che era il modo per proteggersi dagli effetti più aspri della globalizzazione, per fare in modo che il modello europeo potesse sopravvivere all'iperliberismo. Beh, qualcosa è andato storto. C'è stata la crisi, forse fino al 2009 questo modello ha resistito. Quando le cose vanno bene, anche i matrimoni. Sì, no, perché anche fino al 2009 non è che fosse andata proprio in questa direzione. Se va a guardare, diciamo così, l'allocazione tra le spese sociali e le altre spese dello Stato, ma anche il divide, diciamo così, tra profitti e retribuzioni dei dipendenti. C'è stato proprio uno shift molto forte tra il tasso di redditività, per così dire, del denaro e il tasso di redditività del lavoro. Ecco, questo dipende dall'Europa o dipende dalle politiche nazionali, dall'incapacità dei governi di governare in fondo anche le economie, di redistribuire dove necessario, di creare le condizioni poi per produrre ricchezza, dipende, che è altrettanto dipende fondamentale. Da tutte queste cose dipende sicuramente dalla scarsa lungimiranza dei governi, dunque siano collocati, dipende anche dalla scarsa fantasia istituzionale per alcuni aspetti, ma credo che il punto sia che in quest'ultima elezione abbiamo scontato proprio la sensazione da parte degli elettori, dei cittadini europei, di essere stati turlupinati in qualche modo. Allora, questo noi possiamo discutere quanto vogliamo e concordare, credo, sul fatto che in assenza di questo sarebbe stato persino peggio. Però non abbiamo venduto l'Europa come meno peggio. Beh, però in fondo gli euroscettici o gli eurodelusi o gli eurocontrari sono comunque nel complesso un 15-20% ancora, quindi una di quelli che hanno votato. Poi ci sono tutti quelli che non sono presi neanche il disturbo di andare a votare. E poi ci sono realtà come quelle italiane in cui il Presidente del Consiglio è riuscito nel doppio salto mortale, per così dire, di rappresentarsi da un lato come membro dell'establishment rispetto ai suoi colleghi europei e contemporaneamente di presentarsi all'elettorato come alfiere del grande cambiamento, certo, di un cambiamento così radicale da sfiorare, per così dire, gli argomenti dell'antipolitica, ma addomesticando. Ecco, in fondo Renzi ha fatto questa operazione di far diventare il lupo un cane lupo per il momento. E questo in qualche modo ha cambiato anche i numeri dell'opposizione. Realisticamente italiana, cosa può fare in questo semestre italiano che comincia nei prossimi giorni, in fondo semestre di presidenza europea da parte dell'Italia? Ma intanto bisogna riconoscere che il semestre di presidenza europea oggi non è più quello che poteva essere qualche anno fa, perché da quando c'è appunto una presidenza effettiva dell'Unione, il ruolo del presidente di turno comunque è un ruolo meno rilevante, anche se va detto che probabilmente durante il nostro semestre, per un pezzo almeno, non ci sarà il sostituto di Van Rompuy. L'altra cosa importante da dire è che Renzi può fare abbastanza, secondo me, nel senso, intanto continuare a dare questa sensazione dell'Italia come un paese che inizia a essere mezzo pieno e non mezzo vuoto, per così dire, che come lei sa, qualcosa fa, insomma, ecco. E questo è importante, perché poi i mercati, non solo i mercati ma anche gli opinion leaders, per così dire, sparsi per il mondo, sono molto attenti a queste nuance. E poi credo, mentre continua a fare quello che in Italia deve essere fatto e deve essere iniziato tante volte per riformare il sistema, per renderlo più concorrenziale, più competitivo e quindi anche più equo, perché questa è una cosa che non va mai dimenticata, perché adesso il nostro sistema non è competitivo e non è neanche equo, contemporaneamente può fare un'altra cosa, che è porre all'ordine del giorno in Europa una riflessione dall'interno, anche approfittando dello shock elettorale che comunque c'è stato, per chiedersi se non sia il caso di smettere di combattere il fantasma dell'inflazione mentre c'è la realtà della recessione. Sì, certo. Che ci sta guardando con occhio maligno. Ecco, appunto, da un profilo economico, indubbiamente quello che si sta dimostrando è che le politiche monetarie non bastano più quando la crisi non è monetaria, è una crisi reale, una crisi di domanda, una crisi di capacità produttiva, una crisi appunto anche di distribuzione del reddito. Sotto questo profilo le vecchie logiche anche economiche devono essere superate, ma il problema è come poter superare queste vecchie logiche. Beh, intanto partendo dal punto di forza, il punto di forza europeo è comunque quello di rappresentare una parte del cospicua del prodotto interno lordo del mondo, e quindi se l'Europa inizia ad avere delle politiche di maggior protezione, per esempio, del sistema socio-economico europeo, e a chiedere dei costi, per esempio, per la protezione degli investimenti, dei prezzi, apprezzare quello che il mercato poi prezza naturalmente, beh, in qualche modo questo potrebbe essere un inizio di un'inversione di tendenza. È chiaro che bisogna volerlo fare. Bisogna porsi il problema, perché nell'ordine dell'interesse del capitalismo, quando vediamo un sistema economico che complessivamente lascia fuori metà dei giovani dal mercato del lavoro, a cifre di disoccupazione così elevata, noi dobbiamo pensare che stiamo facendo un pessimo servizio all'economia di mercato, perché stiamo facendo crescere tutte quelle idee fantasiose e pericolose di altre economie che finiranno per essere non capaci magari di produrre ricchezza, ma sufficienti per essere usate come teste d'ariete contro il nostro sistema economico. Quindi c'è di far funzionare meglio il mercato, un mercato che funziona, ma un mercato che non presenti le distorsioni e soprattutto le disuguaglianze che ha presentato, che sono insieme la causa e l'effetto della crisi. Un mercato inclusivo, innanzitutto non esclusivo, perché è un mercato che deve includere forza lavoro così come include capitale, e dall'altra parte un mercato più equo, nel senso che non è tollerabile che ci sia una sproporzione così evidente tra chi apporta un fattore di produzione e chi apporta un altro fattore di produzione. È vero che il capitale in questi anni è stato il fattore più scarso, perché sono stati anni di grande innovazione tecnologica, e ogni volta che abbiamo grandi innovazioni tecnologiche, diciamo, è più utile avere soldi che avere, certo, idee. Però dobbiamo ricordare che se vogliamo rendere vero quello che diceva Steve Jobs, dobbiamo nuovamente far tornare a contare le idee più dei soldi. Invece tutti noi sappiamo di vivere in un mondo in cui i soldi si fanno con i soldi, purtroppo, e molto meno con le idee. Con le idee, e soprattutto rispettare le persone, rendere inclusivo il mercato, garantendo appunto che la globalizzazione abbia anche questo volto. Cioè, abbiamo parlato del Medio Oriente, un po' dell'Asia, c'è una realtà come quella africana, che è una realtà molto composita e molto diversa, che alcuni dicono sarà la grande protagonista dei prossimi anni. Anche qui l'Europa è un po' distratta verso l'Africa. Sì, anche perché noi non dobbiamo essere consapevoli che la certezza che l'Africa sarà la protagonista, ce lo dice la demografia, nel giro di 25 anni l'Africa sarà il più grande polmone di manodopera in età di persone in età di lavoro, tra i 14 e i 65 anni. Sarà questo quando la Cina sarà già un paese in contrazione, quando l'India sarà un paese in pensionamento. Per cui questi sono i dati, e dico questo con dati di Ebola sextantibus, AIDS sextantibus, guerre, cioè senza cambiare niente, così male come va, comunque questa è la questione. Sta a noi trasformare quello che può essere solo un gigantesco problema, tipo quello di cui abbiamo sperimentato adesso, l'avvisaglia con le ondate migratorie, in un'opportunità. Noi abbiamo le capacità organizzative e di capitale, se non andiamo in quella direzione saremo travolti da chi ha solo il numero. Ecco, sotto questo profilo siamo ancora condizionati dall'eredità postcoloniale verso l'Africa, forse. In parte sì, ma a volte temo che siamo soprattutto condizionati dal fatto che siamo una popolazione che sta invecchiando. Ecco, il fattore demografico viene spesso messo in secondo piano. L'Europa è anche un continente, non solo il vecchio continente, ma anche un continente vecchio, un continente appunto di vecchi, che ha non solo dei problemi, ma soprattutto che non ha forse la spinta ad andare verso delle cose nuove, verso delle realtà nuove. Quindi anche questo, oltre che sul fronte poi molto concreto della domanda, che i vecchi consumano meno dei giovani, si sposano meno che non i giovani, mettono su casa meno dei giovani, ecco, anche questo è un fattore che va tenuto presente nel confronto degli equilibri internazionali. Penso di sì, perché la propensione al rischio conta, immagino, ma sono quasi sicuro, in economia e nel mercato, ma la propensione al rischio conta anche in politica. Certo. Ed è chiaro che se le constituencies, i gruppi di sostegno dei leader politici sono costituite da persone middle age che hanno problema di come ospitare ancora in casa il figlio trentenne, 35enne con la nuora e i nipotini, beh, la loro propensione a avere politiche molto, diciamo così, propense, scusate, orientate al rischio sarà piuttosto bassa. Questo è un problema, però, perché le sfide sono quelle esterne oltre a quelle interne, e quelle le affronti solo alzandoti e guardando lontano. Ecco, guardando un po', appunto, alzandosi e guardando lontano, guardando un po' queste organizzazioni internazionali che ci sono, ma non sappiamo bene quale sarà il loro futuro. Ci sarà più spazio in futuro per organizzazioni come l'ONU, come il Fondo Monetario? Riusciremo ad avere una globalizzazione gestita? Non credo tanto, penso che lo scenario più immediato sia piuttosto una regionalizzazione del sistema internazionale per la componente politica, e che significa quindi una regionalizzazione anche per i principi di legittimità del potere politico nelle diverse regioni, il che potrebbe portare a grossi attriti. Un esempio concreto, banale, è la questione tra Occidente e Russia sull'Ucraina. Dal punto di vista economico, mi sentirei di dire che l'unico punto su cui la globalizzazione continua a restare globale è quello economico. Russi, cinesi e quant'altri discutono con noi su tutto, ma non sull'idea di uscirsene dal mercato globale. Ecco, sotto questa prospettiva, allora, comunque, il fatto che si dialoghi, che ci sia questa globalizzazione anche delle idee, delle comunicazioni, è comunque un fatto positivo. Beh, finché si parla è positivo, per cui direi che non c'è dubbio. Dopodiché, se noi non ci occupiamo del mondo, il mondo si occuperà di noi, e a quel punto non sarà il fattore più pericoloso per i prossimi anni, quale potrà essere? Direi comunque l'estremismo politico. Quindi soprattutto l'area medio orientale, l'area medio orientale, ma anche la Russia, perché non dimentichiamo che in Russia c'è la costruzione di una legittimazione del potere di Putin fatta con gli avanzi, diciamo così. È la biologico. Più grande speranza, invece, guardando un po' con ottimismo il futuro. Ma direi l'America Latina. Anche perché ci ha dato un Papa che si sta dimostrando un grande Papa. Sì, perché no? Grazie a Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali dell'Università di Milano, di essere stato con noi questa sera. Abbiamo fatto uno sguardo un po' complessivo sul mondo, forse un po' veloce, dando un po' con realismo, però, idea dei temi di attualità, ma anche delle possibili soluzioni. Grazie a Vittorio Emanuele Parsi, grazie anche a Filippo Reggi in regia, Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.